Io ho scritto delle cose nel mio sito che sono state, hanno anche avuto molta eco perché si è fatta viva gente che non sentivo da decenni, studenti di Parinetto, che appunto con il lockdown la gente era tutta sul computer e quindi andava cercando le cose e trovava anche i miei scritti, i miei interventi. Per cui insomma un po' c'è stato un risvegliarsi di rapporti, di relazioni, c'era questa tensione anche nel cercare un punto di vista differente rispetto a questo essere completamente proni e prone di fronte a ordinanze che erano assolutamente deliranti, contraddittorie. Un giorno ti dicevano una roba, poi il giorno dopo, se non il giorno stesso, ti dicevano l'opposto, in un clima di infantilizzazione generalizzata veramente pesante. Le compagne della coordinamento avevano fatto circolare un testo che abbiamo divulgato a varie compagne. Chi ci ha risposto, con chi ci ha risposto abbiamo creato una mailing list cercando di scambiarci strumenti di resistenza in questa mailing list. Anche perché vedevamo intorno a noi, un po' da varie parti d'Italia, perché in questa mailing list c'erano donne che stavano in varie città e campagne e regioni d'Italia, eravamo un po' allibite dalla reazione non tanto della gente, che da quella non ci aspettavamo granché. Abbiamo visto dei livelli di infamia incredibili, appunto ormai il poliziotto interiorizzato, quindi stare alla finestra a guardare per insultare, per piuttosto che per segnalare alla polizia o ai vigili. Ma ci ha sconvolto molto, ci sconvolgeva molto la reazione anche di tanti compagni e compagne che nel trovarsi sprovvisti di strumenti, un po' come tutti e tutte ci siamo trovati, però hanno come fatto un passo indietro e questo ci sconcertava. Per cui ecco, diciamo che questa mailing list ci è servita a scambiare del materiale, a darci forza, ad avere dei punti di vista un po' più complessi, differenti, eccetera. Nel frattempo un compagno sardo, Afshin, che ha scritto anche in questo libro, ha intercettato appunto un mio intervento che era "Adesso basta" nel mio sito. "Adesso basta" io lo scrissi il giorno dopo che nella conferenza stampa governativa venne fuori la questione che ci si poteva vedere coi congiunti. Ho detto basta, adesso veramente un sano porco Dio no. Questo non lo facciamo passare, non lo possiamo far passare, perché non esiste che io debba vedere o possa vedere per vedere qualcuno il mio cugino di quinto grado e non possa vedere le mie amiche. Cioè io mi vedevo clandestinamente con un'amica, ci trovavamo, io facevo dei sentieri, delle strade di montagna, io sto in Toscana da un po' di anni per non fare l'Aurelia dove c'erano i posti di blocco e per vedermi con lei al parcheggio del supermercato e scambiarci idee, cose, abbracciarci, lanciare via ste cazzo di mascherine e tra l'altro appunto due persone considerate soggetti a rischio perché io venivo dall'esperienza del cancro e lei sieropositiva, quindi dovevamo essere quelle che si blindavano e che anzi mettevano le mine anti-uomo fuori da casa perché nessuno si avvicinasse, invece avevamo una voglia matta di vederci. Ecco, allora ci ha un po' sconvolto questa reazione. Quindi questo compagno ha intercettato questo mio "adesso basta", che è stato proprio un urlo. Io sono andata a letto quella sera rimuginando, dico ma questi si stanno permettendo veramente troppo, troppo, troppo. Stanno entrando nella nostra vita più intima, ci hanno detto sui giornali online in quei giorni, ti dicevano come scopare, come abbracciare le persone, cosa mangiare, cosa leggere, come fare ginnastica, cioè un disciplinamento che veramente aveva raggiunto dei livelli incredibili, no? E che anche si entri nella sfera intima delle relazioni, per cui io non posso vedere le amiche come se le amiche fossero e le mie compagne come se fossero, come dire, delle portatrici, no? Delle untrici, ma posso vedere per di mia sorella con cui ho rotto i rapporti da decenni, ma è veramente una cosa che non sta né in cielo né in terra. Quindi appunto Afshin ha proposto di fare questo libro insieme, una riflessione, cioè una proposta che lui aveva fatto a questo editore Catartica. E io però ho pensato, mi ha detto un po' chi sarebbero stati gli altri autori e l'altra autrice, e ho detto, beh, però io non voglio fare la quota panda del femminismo in un libro. E mi fa piacere, no, perché non mi interessano né le quote rosa né le quote panda. Mi interessava invece riuscire a mettere potenza in uno scritto. E quindi ho proposto che nel libro intervenisse anche Elisabetta, o che in alternativa, siccome c'era un limite di pagine, io e Elisabetta scrivessimo qualcosa insieme. E abbiamo scelto di scrivere appunto insieme questo articolo, ma non con un'unica scrittura. Appunto, come Roberto ha detto, è fatto in due parti, perché io e Elisabetta siamo due soggetti diversi, abbiamo storie diverse, percorsi diversi, ma ci troviamo su obiettivi e pratiche comuni. E quindi mantenere questa diversità nel portare un punto di vista femminista mi sembrava estremamente interessante. Il mio punto di vista partiva da due esperienze che incarno, ma che qualunque donna, bene o male, qua dentro incarna, una in particolare, l'altra fortunatamente no. L'esperienza, appunto, cioè quando noi, quando una donna è bambina, prima di, e quando è adolescente, se lo sente dire in continuazione, non uscire, il mondo fuori è pericoloso. Quindi sentire che lo Stato stava dicendo le stesse cose, a me ha fatto suonare un campanellino d'allarme, ho detto già sentita questa cosa, a casa mia si chiama disciplinamento patriarcale dei corpi delle donne, dei comportamenti delle donne da che sono piccoline. Come ci siamo ribellate noi a questo disciplinamento? Il movimento delle donne dagli anni 70 che strumenti ci ha dato per questa ribellione? Cioè, andiamo a vedere questo. Quindi prima esperienza, appunto, e credo che risuoni come esperienza comune a tante qua dentro, il ritrovarsi davanti a qualcosa che di fondo si conosceva già, mentre il ritornello era siamo in una situazione del tutto nuova e mai vista. Ma insomma, mai vista, dipende insomma. Insomma, dipende da chi lo dice. L'altra esperienza, che dico per fortuna invece non è condivisa da tutte le donne, è stata la mia esperienza con il cancro, nel senso che io sto ancora curandomi dal cancro, mi è passato, però insomma sto finendo i famosi 5 anni di terapie. E quando io ho scoperto di avere il cancro, la prima cosa che mi è venuta, e proprio perché ho un percorso nel movimento delle donne da che ero una ragazzina, è stata autodeterminarmi. Quindi autodeterminarmi nelle scelte terapeutiche, autodeterminarmi in tutta una serie di questioni, nelle relazioni, chi voglio vedere, chi non voglio vedere, cioè prendere in mano la mia vita mai come in quel momento. E mi dicevo, cioè, l'ho fatto con il cancro, quando l'avevo non lo posso fare in un momento in cui c'è un virus che io non ho. Cioè, perché io per una malattia che non ho mi devo comportare in modo diverso da come mi sono comportata e autodeterminata di fronte invece a un problema reale che avevo? E questa cosa per me era veramente sconcertante, cioè mi rendeva evidente l'espropriazione proprio della possibilità, della capacità di scelta che ciascuna e ciascuno di noi ha sviluppato, soprattutto nei percorsi politici, nei percorsi di liberazione. La liberazione non l'abbiamo ancora raggiunta, ma ci teniamo molto a lavorare in questo senso. E allora ecco che a partire da questi due elementi esperienziali, quindi non degli elementi ideologici, ma qualcosa che io sentivo incarnato nel mio corpo, e da qui la mia grandissima insofferenza, ho provato a ragionare un po' su quello che appunto citava prima Roberto, cioè la questione del margine, cosa significhi guardare dal margine, che cos'è una prospettiva dal margine, appunto su forte suggestione di bell hooks, e cosa significhi anche un recupero della memoria senza dover andare a vedere esperienze che stanno dall'altra parte del mondo. Per quanto io stessa stessa abbia pubblicato nel periodo del blindamento delle esperienze dall'America Latina. Ho guardato anche molto all'Irlanda del Nord, dove ancora da questa colonia che interna all'Europa, che ha una storia di 8 secoli, ancora sono lì con la Brexit a gestirsi il nodo di questa colonia, cioè là dove c'è una dimensione comunitaria reale, forte e non fittizia, come stanno gestendo queste cose? E allora appunto ho inizialmente incominciato a guardare quello e poi mi sono anche detta, però noi abbiamo delle esperienze nella nostra storia, cioè l'Occidente non è solo l'Occidente del capitale, c'è dell'altro, e qui appunto viene fuori tutta la dimensione alchemica Paracelso, che non a caso è la stessa dimensione che viene recuperata da guerriere come Vandana Shiva nel lottare contro le monoculture, che non sono solo monoculture ma sono anche monoculture, cioè un punto di vista unico, sostanzialmente il pensiero unico. E allora ecco, per me è stato importante dire proviamo a recuperare questi come strumenti. Non mi interessa e non mi faccio abbindolare dai discorsi sull'economia sostenibile. Peraltro in quei giorni di blindamento è stata online quel bel documentario prodotto da Michael Moore proprio sulle energie rinnovabili, che fa vedere che immensa truffa siano queste energie rinnovabili, quanto inquinamento si produca per produrre le energie rinnovabili e quindi quale ennesima truffa del capitale ci stia dietro il discorso delle energie rinnovabili, perché il problema non è l'energia rinnovabile o meno, il problema è il modello di sviluppo, e quindi se non si mette in discussione quello non andiamo da nessuna parte. Non è che allora mettiamo il pannello solare, che non sappiamo che per produrre il pannello solare si fa la devastazione a livello di inquinamento proprio per le materie, per l'estrazione delle materie, la costruzione dei pannelli o del fotovoltaico o anche delle pale eoliche, è veramente sconcertante. Quindi per non farci ingannare da questo vediamo di darci degli strumenti. Onestamente però devo dire, più che dare delle risposte, quello che mi sembrava sarebbe stato anche profondamente arrogante, quello che mi interessava era cercare di buttare lì degli stimoli, che è quello che vorrei anche facessimo insieme questa sera, cioè che questa non fosse semplicemente la presentazione di 2 libri, ma che diventasse un momento di riflessione comune, perché penso che tutte le testoline qui dentro abbiano elaborato tanto e si siano anche scontrate con tante contraddizioni nei mesi passati e anche attualmente, perché non ci mollano, cioè ci stanno continuamente tenendo in questo stato continuo di allerta, no? Poi devo dire la Lombardia è anche terrificante da questo punto di vista. In Toscana la questione è stata gestita in maniera molto diversa. A un certo punto il governatore della Toscana, adesso non è che voglio fare l'apologia di Rossi, però ha detto uscite, prendete aria, fate movimento, vi fa bene, mentre a livello nazionale dicevano state blindati, piuttosto che, ne so, cose tipo usate le mascherine, sì, ma a noi in Toscana le regalavano, andavi con la tesserina sanitaria e te ne davano 10 alla volta per un totale di 30 al mese, no? Qui in Lombardia invece, dove hanno fatto il guaio cosmico, perché poi ho avuto occasione di vedere compagni che lavorano nella sanità, stasera vedo che è arrivato Andrea e ciao anche Annalisa e parlare con Andrea, con Nicola, che appunto nella sanità ci lavora da tantissimo tempo, per farmi spiegare che cosa veramente qui fosse successo, perché da fuori era davvero incredibile quello che si percepiva della Lombardia, non si riusciva a capire il perché di questo disastro incredibile. Ora, al di là del discorso dell'inquinamento che c'è in Lombardia, in certe zone della Lombardia, e al di là del fatto che la logistica nel periodo del blindamento ha continuato a lavorare tantissimo, camion su camion, tutti ordinavano su Amazon, quindi le zone appunto tipo della Bassa Padana, la zona dove stanno tutti i magazzini della logistica, erano zone ancora più inquinate, quando in realtà appunto bisognava cercare di limitare, no? Però ecco, era difficile capire, per cui per questo a me piacerebbe che questa presentazione fosse in realtà un momento di riflessione collettiva, per non farci trovare di nuovo impreparate e impreparati, perché il rischio è questo. Cioè, questo governo lo sa dove vuole arrivare e lo sa come confondere bene le idee, e c'è tanta gente che continua a crederci. E noi che cosa vogliamo fare? Questa per me è una domanda che non ci possiamo porre solo individualmente e per trovare delle vie di fuga individuali, degli escamotaggi individuali. Il problema è grosso, è un grosso problema politico e come tale va trattato. Concludo dicendo che mi è capitato di leggere sull'ultimo numero di Nunatak, a parte il bel editoriale, insomma, dove venivano messe in luce tante contraddizioni che compagne e compagne, con cui compagne e compagne si sono anche misurati, però c'era anche un articolo sul 5G. Quello che a me ha colpito in quell'articolo è la descrizione di quello che è il progetto di Smart City. Questa sostanzialmente diventare come umani schiavi di algoritmi che decidono che cosa sia il meglio per noi. Ecco, quando io ho letto quell'articolo ho fatto un po' 2 più 2, mi sono detta: ma ecco qual è stato, cioè in che direzione si sta andando. Tutto questo infantilizzarci, confonderci completamente le idee in modo da non avere coordinate per autodeterminare le nostre scelte, va proprio nel senso di delegare, in questo caso al governo, alle forze dell'ordine, all'esercito, ma poi all'algoritmo, perché il progetto è quello, comunque delegare sempre a qualcuno che sa per te quale sia la scelta migliore, la soluzione migliore. E io credo che questo sia uno scenario veramente terribile e che sia questa la battaglia politica che in questo momento è importante fare. Io mi fermerei per ora qui e lascio la parola a Elisabetta, e auspico però appunto che ci sia poi un bel dibattito, diciamo, bello, bello ciccio. Grazie. Grazie Nick, soprattutto grazie a tutte e a tutti di essere venuti qua, perché parlare è estremamente importante. Grazie alla Calusca, grazie a Conchetta, e volevo proprio cominciare, proprio perché parlare è importante, con una frase a proposito di Bell Hooks, che è stata nominata già in apertura, con una frase che Nicoletta ha scelto per introdurre il nostro articolo doppio, diciamo così. Bell Hooks dice: importante non è soltanto ciò di cui parliamo, ma anche come e perché decidiamo di parlare. Quindi è questo il problema che noi ci siamo poste, cioè non soltanto fare dei bei testi, fare delle belle analisi, sviscerare la situazione come si deve, ma noi siamo qui perché riteniamo importantissimo parlare di questa cosa adesso e sviscerare quello che possiamo fare, quello che si può fare insieme, gli obiettivi che ci possiamo dare. Noi non abbiamo la palla di cristallo, però insieme dobbiamo necessariamente discutere di questa cosa.

visto che parliamo di sanità, alla luce appunto di quello che sta avvenendo in giro per il mondo e alla luce di una tendenza che neanche l'emergenza coronavirus è riuscita ad arrestare, se non per breve periodo, di crescita delle proteste, delle lotte, dei tumulti di piazza. Una dimensione che in Italia si fatica magari a cogliere, se non quando arrivano gli sprazzi dal Cile o da altre parti, ma che è oggetto di studi molto, molto approfonditi da parte di istituti di ricerca statunitensi e non solo, che proprio mostrano un trend in crescita e che appunto ultimamente ha investito la patria, il luogo di nascita e di formalizzazione dell'ideologia e della pratica neoliberista, dalla scuola di Chicago che la sperimenta per la prima volta nel Cile di Pinochet, alla Reaganomics quando va su l'attore Modesto, che poi diventa Washington Consensus e poi si generalizza e appunto si mastica velocemente i rimasugli del vecchio movimento operaio, delle vecchie socialdemocrazie e poi permea via via tutti gli istituti del capitale internazionale. Ecco, ma appunto, qual è lo stato di salute? Perché è una domanda centrale, dentro la quale si scrivono anche le questioni che abbiamo iniziato a discutere, che sono molto ben tratteggiate nel libro, perché poi non si tratta solo, ripeto, di quanto sta avvenendo negli Stati Uniti, ma dell'intera filiera delle esperienze di autoaiuto, mutualismo, condivisione della povertà e resistenza, che anche queste sono iniziate qualche tempo prima e si può datare quantomeno stando sul breve periodo all'attivismo che si è manifestato in occasione dell'uragano Katrina a New Orleans, che secondo me è lì proprio visto che una delle esigenze poste è quella della memoria delle nostre pratiche, per quanto riguarda l'Italia possono essere fatte risalire a due eventi entrambi del 1976, Seveso e il terremoto in Friuli, due grandi esempi diversi, poi con un corso di condivisione di una situazione estremamente drammatica, puntuale e repentina di crisi del modo di vita di intere comunità. E poi ce ne sarebbero, ecco. Se teniamo insieme quello che Black Lives Matter si è presentata come manifestazione democratica, pacifista, a un certo punto sono arrivati quelli, voi siete pacifisti, però il servizio d'ordine armato ve lo facciamo noi. E non è che questo abbia... Sono delle questioni anche sul piano simbolico incredibili, cioè secondo me sono molto più forti le immagini attuali che non addirittura la famosa immagine del 67 a Oakland delle pantere nere che sfidano armate, perché le pantere nere allora sfruttarono un codicillo della legislazione e portavano armi scariche. E adesso invece le armi sono cariche. Poi c'è tutto da discutere, vedere, eccetera. Fatto sta che un segnale è stato dato ai suprematisti bianchi. Bene, venite che vi aspettiamo. Ecco. Allora, a che punto è la notte? È una domanda un po' grandina a cui rispondere. Però quello che a me viene in mente è... Per esempio, un bell'articolo che ci ha segnalato Silvia Baraldini, perché una volta che sono andata a Roma ci siamo viste io e Elisabetta con Silvia proprio per fare una chiacchierata con lei su quello che stava succedendo negli Stati Uniti, perché quello che passava in Italia, insomma, non ci convinceva per nulla il tipo di informazione, e quindi volevamo un po' capire da lei, ma soprattutto chiederle che cosa avesse senso leggere, insomma, delle indicazioni di lettura di articoli, e Silvia ci ha anche segnalato tante cose interessanti. Una di queste che a me ha colpito in maniera particolare è un intervento pubblicato, mi sembra sempre sul New York Times, di una donna, purtroppo non ricordo il nome, comunque l'ho segnalato nel mio sito, che iniziava con "Ho la pelle colore dello stupro", che è un pugno nello stomaco, una frase così, perché sostanzialmente lei, nera, raccontava la sua storia, la storia delle donne della sua famiglia, la madre, la nonna, la bisnonna, e di questo stupro da cui arriverà poi la sua generazione. Lo stupro era una pratica, lo sappiamo benissimo, utilizzata ampiamente dai padroni della piantagione, non solo come forma di dominio sul corpo della schiava, ma anche per utilizzare il corpo della schiava per riprodurre la forza di lavoro schiavistica. Quindi aveva questa duplice funzione, che assomiglia molto a quello poi di fondo che fa il capitale, no? E questa donna, di fronte a tutto l'abbattere dei monumenti, diceva: la mia pelle è un monumento, io sono un monumento. Cioè una riflessione veramente molto profonda, a partire da sé, e in questo senso profondamente femminista, che andava ad attaccare uno degli infiniti cuori del suprematismo bianco, che sta anche nella negazione proprio della pratica dello stupro nelle piantagioni, no? Come se fosse un fatto occasionale, marginale, e non una prassi invece consolidata, e che aveva proprio un suo senso economico. E allora ecco, se interventi come quello, così come d'altra parte la cosa importante che ci segnalava Silvia Baraldini, per esempio questa volontà di cancellare la polizia americana, cioè basta polizia, perché negli Stati Uniti la polizia ha una determinata forma che viene mantenuta con dei fondi, bla bla bla bla bla. E quindi uno degli obiettivi di questo movimento, e non è da poco, è abolire la polizia, voglio dire, credo che farebbe piacere farlo in tantissimi paesi, quindi dico, sono tanti gli aspetti, ma questo elemento dell'andare a toccare la questione della schiavitù come elemento fondativo anche del capitalismo è estremamente importante, è estremamente interessante. Allora, a che punto è la notte? È a un punto delicato, secondo me, è un punto in cui sta emergendo tanti non detti, stanno emergendo in Italia, per esempio, ancora si fa fatica a parlare della schiavizzazione durante il colonialismo italiano nel Corno d'Africa, no? Per cui negli Stati Uniti stanno emergendo fortemente questi non detti, stanno emergendo anche in Gran Bretagna, che ha vissuto un colonialismo, cioè una schiavitù di tipo diverso, perché le colonie inglesi stavano altrove, non erano lì, e quindi era più facile far finta che non ci fossero, e quindi era più facile non rendersi conto di come si ciucciava il suprematismo con il sangue, con il latte materno. Ecco, quindi tutti questi aspetti, secondo me, stanno prefigurando qualcosa di molto grosso. Su questo qualcosa di molto grosso, però, deve continuare ad aleggiare con insistenza, e oserei dire anche con una certa arroganza, la domanda che Elisabetta ha posto: ma veramente non lo vogliamo il capitalismo? Che significa? Andiamo a vedere fino in fondo le nostre complicità col capitalismo. Perché essere complici del capitalismo ti dà dei privilegi, ti dà comunque un ritorno, no? Quindi essere contro il capitalismo sì, ma a metà, è pericolosissimo, è socialdemocrazia appunto, no? Per sintetizzarlo nelle parole di Elisabetta. E proprio questo interrogarsi sul privilegio bianco, secondo me, innanzitutto, che davvero noi non vediamo perché ci siamo cresciuti in mezzo, e su tanti altri privilegi. Prima, per esempio, Elisabetta citava i presidi, i dirigenti scolastici. Io devo dire che, lavorando nella scuola, se c'è una figura che farei fuori sono le figure strumentali, il corrispondente del capo reparto nella fabbrica. Perché la strutturazione della scuola come azienda funziona grazie a queste figure strumentali. Non è tanto il potere del preside, quanto tutta questa corte che per delle briciole, perché prendono veramente quattro miseri soldi, cioè proprio ci sarebbe da sputarci sopra quei soldi, però si ammanicano, acquisiscono potere, ed è quello che dentro la scuola è terrificante. E allora, per esempio, recentemente è uscito il bel libro di Mau, no? E leggere, per esempio, del capo reparto preso e messo fuori dai cancelli della fabbrica legato, e ognuno gli faceva un po' quello che si sentiva di fargli. Ecco, tante figure strumentali, un trattamento così credo che potrebbe essere profondamente educativo e pedagogico, proprio per fargli capire che stanno contribuendo alla distruzione dell'ambito educativo, dell'ambito dell'istruzione, stanno contribuendo alla sindacalizzazione, e nessuno ti costringe a essere figura strumentale come nessuno ti costringe ad essere preside. Ecco, questo giusto per fare un esempio, no? Allora, credo che chiunque qui insegni in una scuola ha sicuramente dei colleghi o delle colleghe che si dicono di sinistra e fanno le figure strumentali. Ecco, aprire anche queste contraddizioni, perché è assolutamente importante. Cioè, è in anche in queste apparentemente piccole cose, che piccole non sono per niente, perché ripeto, l'aziendalizzazione è significato riprodurre i dispositivi della fabbrica, il sistema fabbrica in altri ambiti, nella scuola, nella sanità, eccetera. Questo è combattere il capitale. E lascio la parola a Elisabetta, poi magari aggiungo delle altre cose. Volevo partire per rispondere direttamente alla questione che ha posto Roberto, da Urban Operation 2020, cioè la NATO anni e anni fa, adesso sono diversi anni, ha fatto un rapporto sulla situazione mondiale. Sulle possibili ripercussioni delle scelte neoliberiste sulla popolazione, sulle possibili risposte di questa popolazione, e l'ha praticamente sviluppato per il 2020, noi siamo nel 2020, e parla della situazione delle città metropolitane e delle situazioni urbane come quelle a maggior rischio di risposta antagonista, cioè di ribellione rispetto a tutto quel meccanismo di assoggettamento, di asservimento e di impoverimento che hanno cominciato diversi anni fa ormai a mettere in atto. E questo rapporto prevede anche delle risposte rispetto a delle situazioni di ribellione nelle situazioni metropolitane, chiamiamole così, perché loro se lo aspettavano. Allora, Al di là dei meccanismi che il potere ha scritto, che avrebbe messo in atto, che poi sono quelli che ha messo in atto sul serio, e ce ne sono anche altri che sarebbe particolarmente interessante parlare, ma è una cosa piuttosto lunga. Vuol dire che queste rivolte, sono la normale reazione, dovrebbero essere la normale reazione a tutta una serie di cose. Per me, per rispondere a Roberto, aspetta, vorrei toglierlo perché io non so parlare con questo. Preferisco, ecco, grazie. Allora, per me, per rispondere a Roberto, ce ne sono troppo poche, cioè gli sta andando di lusso, e anche se negli Stati Uniti sta succedendo questo, in America Latina sta succedendo altro, in Francia sta succedendo altro, però la risposta, io non è che la legga così in maniera positiva, per un motivo. Allora, le rivolte negli Stati Uniti sono rivolte reali, ormai appunto vanno avanti da tanto tempo, però non è vero che sono di fatto al limite dei riots, cioè non hanno quello che si può definire un progetto politico. Non è che questo si costruisce dall'oggi al domani, non è che questo è riferibile, per carità, a un partito, a un'organizzazione specifica, eccetera. Però gli obiettivi che un movimento si pone dovrebbero, per essere efficaci, diventare immediatamente politici. Quello che ci ha raccontato Silvia della richiesta di abolizione, richiesta di porre l'abolizione della polizia, per esempio, quello è un posizionamento politico, perché è chiaro che è una richiesta che non verrà mai accolta ed è una richiesta improponibile, ma proprio per questo è una richiesta politica, perché mette a nudo l'impossibilità di gestire una cosa del genere. Allora, o si va in questo senso o rimangono riots, cioè è una scommessa, bisogna vedere la piega che prendono. Per esempio, i Gilets Jaunes in Francia, che hanno fatto un lavoro stratosferico, però sono in un punto morto, perché non si sono costituiti in organizzazione con degli obiettivi politici. Io non conosco bene la situazione dei Gilets Jaunes, non conosco bene le varie anime che compongono i Gilets Jaunes, quindi mi è difficile, e non voglio neanche, come faccio a pontificare, hanno fatto bene qui, hanno sbagliato là, hanno fatto troppo qui, troppo là, poco qui, poco là. Però o si costituisce un progetto politico, tant'è vero che anche quello che ho detto prima, il fatto che noi dovremmo reagire in un certo modo, sperare di scardinare determinate cose, però deve essere impostato in maniera non categoriale, non strumentale rispetto a degli obiettivi parziali, ma deve avere un respiro politico che possa scardinare qualche cosa. A me sembra che tutte queste rivolte che ci sono non lo so se ci riusciranno o non ci riusciranno, però il Capitale, dico una cosa che magari per cui verrò mangiata viva, non è in crisi, è in crisi rispetto al Capitale che noi conosciamo, nel senso, il capitalismo neoliberista ha rinnegato tutti i valori da cui è partito. Per cui il capitalismo della rivoluzione francese, della prima fase, eccetera, eccetera, non esiste più, è un'altra cosa. Ha rinnegato la divisione dei poteri, ha rinnegato la certezza del giudizio, ha rinnegato la libertà di stampa, la libertà di pensiero, ha rinnegato tutto, tutta la scala dei valori su cui il capitalismo era nato. Il neoliberismo è l'arroganza del capitale portata all'estremo ed ha anche una capacità militare e di assoggettamento molto forte. Noi con questo dobbiamo fare i conti. Non possiamo dire il capitalismo è in crisi di valori, ma non in crisi di forza. E a noi questo dobbiamo starci molto attenti, perché una fase di forza e di arroganza come ce l'ha in questo momento, non ce l'ha mai avuta, perché non ha più remore di nessun tipo. Cioè lui far fuori fisicamente tutti quelli che si ribellano con, dico una stronzata, i carri armati, non ha nessun tipo di remora, non c'ha nessun tipo di argine. Lui, il capitalismo in questo momento è devastante, come tutte le cose che hanno perso i valori da cui sono partiti. Però è una fase che può durare tantissimo, è una fase lunghissima. Il capitalismo può ammazzare questa terra prima di morire. Chi prende in mano il microfono? Oh, se no... La Nicoletta, vieni, vieni. Nicoletta aveva detto che voleva finire. Dopo. Vieni, vieni. Certo. No, mi interessava questa funzione della crisi del capitalismo, cioè il capitalismo si rigenera attraverso la crisi produttiva, anzi, cioè quel fenomeno che viene definito come disruption, no, ad esempio, cioè questa crisi continua di produzione che implementa l'innovazione merceologica in modo che si possa sempre più speculare sui nuovi servizi, è parte stessa del capitalismo oggi. Il fatto di dire... Secondo me è rispettabilissimo il vostro discorso riguardo quello che potrebbe essere definito una decostruzione del sistema attuale, che comunque ha senso, cioè, come a livello di critica istituzionale, ad esempio, no? All'interno della scuola, all'interno di un'istituzione, mi pongo come modalità politica che mi permette di aiutare a decostruire quelli che sono i procedimenti del capitalismo. Ma l'esempio che ha fatto prima la signora è quella di dire non do le impronte digitali per la carta d'identità e quindi la faccio dopo. È un continuo rimando perché prima o poi il capitalismo ti dirà che la devi fare. Non ci sarà possibilità altra. Se tu vorrai la carta d'identità dovrai farlo. La soluzione che vedo io forse è più fantascientifica, cioè quella di bruciarmi le dita. Cioè, il fatto che in Italia si continui a procrastinare la questione per quella che è emblematico del percorso che il capitalismo sta facendo. Questo tipo di assoggettamento, dal mio punto di vista, è parte stessa... La tortura che abbiamo vissuto durante i giorni, no, del Covid, nessuno l'ha mai chiamata come tortura, ma di fatto lo è. Cioè, questa presa di posizione imporrebbe di fatto una presa di posizione immanente, e rispetto, secondo me, il discorso su Black Lives Matter e Gilets Jaunes, penso che la loro opportunità, quella di scendere in piazza, sia di fatto una commistione di eventi che accresce un'esperienza alla quale noi non possiamo accedere. È questa la fase importante, il fatto di potersi permettere di fare nuove esperienze attraverso anche la militarizzazione da parte del proletariato per la difesa in manifestazione dei propri modi di vivere. Cioè, noi vediamo solo gli effetti, ma non vediamo tutta la commistione che esiste all'interno del movimento e quanto questo può essere importante per le persone che lo stanno vivendo. Questo volevo dire. Cioè, però non ti sento. Ho detto una sola cosa rispetto alla carta d'identità. Non ne volevo fare una questione individuale. È chiaro che o diventa una scelta di lotta, oppure quella è una scelta mia, ma non è che incide su nulla, ecco. Secondo me Tommaso voleva dire qualcosa, non è cosciente fino in fondo, ma è vero che volevi dire qualcosa, Tommaso? Ho letto nei tuoi occhi quando eri là in fondo. No, ma è provocato e lo dico, sì. Una piccola considerazione sulla domanda che punta la notte, che è evidentemente una domanda cruciale che ci siamo un po' posti tutti. Io credo che la lettura, credo sicuramente che è vero che la potenza del capitale in questo momento è altissima e che la lettura della situazione non può essere data solamente dal movimento di piazza. Perché, come mi pare dicevate all'inizio, c'è quel punto di vista del margine che in qualche misura sfugge alla rappresentazione e alla narrazione globale. È ben vero che queste singole situazioni tendenzialmente rappresentano soprattutto se stesse ed in un modo, come dire, spontaneo e non riproducibile, forse non apparentemente collegabile l'una con l'altra, ma il movimento del margine è più lento e più silenzioso e tutto starà a vedere quanto sotto questi 120 giorni di 102. Cui 22 giorni 102 giorni che tu dici che tu hai contato, quanto sotto c'è in realtà di lavoro lungo che potrebbe costruire quella istanza o quella capacità di mettere in connessione delle istanze locali che crea realmente la differenza anche con le esperienze di lotta, con molte esperienze di lotta precedenti, almeno insomma quelle del secolo scorso, ecco. Basta, intanto mi dispiace, non interessa a nessuno, però vi volevo ringraziare, è molto bello, è stato molto il libro, l'ho letto, però mi è piaciuto moltissimo i vostri interventi. Basta, ciao. No, a proposito del margine, cioè questa epidemia di Covid ha avuto un effetto di rendere visibile il margine. Io intendo il margine, cioè il mondo operaio, per quanto mi riguarda, cioè produttivo, del lavoro. Diciamo le minime, chiamiamole minime, comunque quello che c'è stato di opposizione è venuto in queste situazioni. Situazioni della logistica, delle fabbriche dove c'è contagio, a Nembro e Alzano non sono state chiuse e abbiamo visto cosa è successo, negli ospedali il personale ospedaliero che è stato qualificato come angeli eccetera eccetera, poi adesso subiscono una repressione da una parte anche da un punto di vista economico. Delle botte non da poco, se c'è qualcuno potrebbe confermare. E quindi non solo i lavoratori dello spettacolo, cosa che non è che si era mai vista, i lavoratori degli alberghi, insomma ci sono state certo non cose eclatanti, però quel poco di resistenza che c'è stato secondo me viene da questo mondo marginale che è un mondo di lavoratori, di operai. Quindi quello secondo me a cui dobbiamo fare riferimento. Proprio a proposito di questo, sempre parlando con la gente, c'è una grande sofferenza rispetto alla situazione che si è creata. La gente vive una grande contraddizione, cioè vive la contraddizione che ha obbedito ed è disposta all'obbedienza, però economicamente e poi socialmente è devastata. È devastata perché è sul lastrico, prima di tutto nella stragrande maggioranza dei casi, e poi è anche devastata perché sente fisicamente questa rottura dei rapporti sociali e compagnia. Quindi se uno parla con la gente per la strada, in vari posti, tutti sono in sofferenza. Allora, però allo stesso tempo non hanno sponda, non hanno nessuno a cui rivolgersi, nel senso sponda intendo qualcuno che sia portavoce o comunque dia voce, dia fiato a questa sofferenza, dandogli però una ragione, perché altrimenti loro sono in contraddizione, no? Cioè in contraddizione tra il desiderio di ribellarsi e che invece vengono ricattati e la consapevolezza che però non ce la fanno. Allora, io secondo me noi dovremmo andare, è chiaro che appunto nessuna ha la palla di cristallo e nessuna è un'opinione, e noi dovremmo andare a una ricomposizione di classe, cioè ricomposizione di classe intendendo che tutto questo vasto arco che è stato colpito prima da tutta una normativa liberista di vessazioni dal lavoro alla scuola a vari livelli. Poi il Covid ha provocato un'accelerazione forte in un meccanismo, in un effetto che era già in atto comunque, soltanto che è stato in maniera devastante portato a conseguenze molto più forti. Bisognerebbe trovare il filo che lega tutti gli strati sociali colpiti dalla crisi e che è di tipo economico, cioè tutta la gente è vessata da tasse, tassine, norme, multe, ticket, c'è un mare di tassazioni dirette, tassazioni indirette, che vanificano qualsiasi sforzo lavorativo, qualsiasi stipendio. Adesso l'ultima che si sono inventati è che la sosta vietata cambiato il codice della strada in alcune norme, che la sosta vietata costerà 670 euro, multe di 670 euro, che alla seconda multa ti sospendono la patente per 15 giorni. Quindi c'è una sofferenza di questo tipo che potrebbe essere l'aggregante di tutti gli strati sociali che sono messi sotto. E noi questo dovremmo coglierlo, dovremmo come sinistra antagonista, come sinistra di classe, chiamiamoci come vogliamo, coglierlo e dare sponda, dare voce a sta gente qua, perché se noi continuiamo a fare diciamo dovremmo dire una cosa banale, che nessuno deve pagare più niente a questo Stato, che noi non dobbiamo dare più niente, che non dobbiamo dare più tasse, non dobbiamo dare biglietti, ticket, multe, non dovremmo pagare niente. Però questo cozza con un problema molto grave, e cioè che lo Stato ha messo in atto dei meccanismi di controllo, che sono le sanzioni amministrative, fortissime, perché poi le cartelle vanno in Equitalia, perché poi ti portano via la casa, perché poi ti pignorano lo stipendio, perché poi ti mettono il blocco sulla macchina. Allora, di questi fattori noi ce ne dovremmo far carico e impostare un discorso politico. Noi dovremmo pensare alle sanzioni amministrative, cioè noi dobbiamo concretamente pensare a come ricomporre la classe e far ribellare la gente. Io Io volevo approfittare di questo momento di pausa per riferirmi brevemente a un altro dei testi compresi nel volumetto, quello di Achin Cavé, che Nicoletta ha detto essere stato un po' il promotore di questo libro. È un testo fondato sul concetto di isolamento, preso ben prima che venisse stabilito per decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e quindi vabbè, non sto a esporvi tutto il testo, ma c'è un passaggio che mi è particolarmente piaciuto, perché richiama un testo di Riccardo d'Este, che vi leggo a breve. Come aveva ben intuito Riccardo d'Este, le pesti neomoderne stanno alla fase attuale di civilizzazione esattamente come le pesti storicamente conosciute stavano a quelle particolari civiltà. Di conseguenza ne sono un coerente stadio di sviluppo o di involuzione, o, per fondere le cose, di sviluppo involutivo. Ecco, mi è piaciuto di ricordare queste parole di Riccardo d'Este, anche perché trae la citazione da un opuscolo di Porfido, Malattie e società capitalista neomoderna, datato 2010. In realtà il testo di Riccardo era compreso nella Malaria, che fu uno sforzo di analisi critica, di affrontamento della questione AIDS da un punto di vista critico radicale, e così mi piace che questo testo prodotto allora ricompaia adesso, magari anche all'insaputa, non so se sapeva che veniva in realtà da lì. No, non è appunto per criticare nessuno, né per vantare alcun merito, ma per accennare a uno sforzo, per quanto discontinuo, che nel corso degli anni si è cercato di portare avanti per stare al livello delle questioni che il capitale e la storia ci pone. Ecco, era solo questo. Chissà Riccardo cosa avrebbe detto in una situazione come l'attuale. Ne avrebbe tratto sicuramente delle battute fulminanti, delle poesie forti e un'analisi a contrappelo delle ideologie correnti. Infatti c'era scritto Stefania, ma non sapevo quale delle due. Io non ho scritto nessun nome. Cioè, a proposito di quello che stavi dicendo tu, io mi farei anche un'altra domanda, perché è molto probabile che invece nei prossimi tempi si scateni qualcosa, e si scateni in un modo che non ci piacerà. E quindi questa è forse anche la domanda che ci dobbiamo fare, perché ci sono sentori, pensate Berlino, quel poche centinaia di Roma, e comunque lo sappiamo che c'è chi è più in grado di noi di raccogliere il malessere, perché non ha peli sullo stomaco, lavora per come ha sempre fatto, mi riferisco alla destra estrema. E probabilmente, visto che nei periodi precedenti non c'è stata una costruzione di coscienza, che è quella che proponevi tu, ma forse non ce la facciamo più, continuiamo, è quello che tutti i giorni continueremo a fare, per carità, di portare le nostre cose, i nostri contributi, stimolare analisi, elaborazioni, cercare di mettere in campo quello che possiamo con tutte le forze che abbiamo, insomma, ecco. Però la domanda che secondo me i compagni e le compagne si dovrebbero fare proprio adesso è pensare a che la situazione che si potrà produrre magari non ci piacerà, e cosa faremo? Staremo in casa o cercheremo comunque di... Io non ce la farò sicuramente, ho già partecipato anche ai Forconi, io a Torino, è stata poi anche una bellissima serata quella peraltro. Lì ci è andata bene, abbiamo colto delle sfumature interessanti, siamo stati in strada con gente X che però diceva anche cose anche nella sua superficialità interessanti, però è quella la capacità che dovremmo avere di capire come stare anche in situazioni che non ci piaceranno proprio. No, no, cosa che ha detto Stefania è molto importante, se ne è discusso un po' anche nei giorni scorsi, perché è un lato della situazione attuale sicuramente fondamentale nell'agire. Ora, di tutte le cose che abbiamo incominciato a discutere stasera, nessuna ovviamente può essere esaurita, e servirebbe una rottura secca della forma incontro pubblico affinché la parola potesse continuare liberamente nella notte, no? come si diceva, facevano i situazionisti un tempo, che non facevano mai una riunione, ma parlavano tutto il giorno al bar, notte compresa, e in questa presa di parola, risposta, vomito asciugato per terra, eccetera, nascevano le idee forti, le illuminazioni che hanno riempito i cuori, e oltre che le teste, di tanti giovani di allora. Poi alcuni non potranno farlo per motivi indipendenti dalla loro volontà, però questa è una disposizione che a mio avviso andrebbe perseguita. È uno dei tanti punti su cui è necessario rompere le forme ossificate della politica, dello stare insieme tra compagni. Poi è chiaro che ciascuno c'ha i suoi cazzi, uno viene da un'altra, però bisogna trovare il tempo in cui la parola fluisce, le idee si formano, la risposta si attacca a un altro punto di vista che produce una nuova enunciazione, insomma qualcosa che appunto si avvicini il più possibile alla plasticità della vita, mentre invece ancora troppo spesso la nostra parola, il nostro sforzo è ingabbiato in forme che in realtà non sono le nostre, e che quando accade qualcosa sono le prime a saltare, no? Perché a quel punto il volantino viene rubato di mano in mano, il tazzebao scritto a mano sono in 100 che sono lì a leggerlo, e il tempo riappare nella sua dimensione di vita, e non di cose da fare, ordini imposti, esigenze a cui ottemperare, eccetera. Uno dei tanti sforzi che potremmo cercare di fare è di anticipare questa, che sarà una cosa che sarà nelle corde di tutti quando succederà le cose, e assumerlo come un nostro modo, un nostro stile, perché ancora i compagni di allora hanno posto chiaramente l'idea che innanzitutto è una questione di stile. Stavo parlando con Nicoletta, ci è venuto in mente una cosa che abbiamo un po' sviscerato quest'anno passato, e a proposito dell'organizzazione politica che uno si può dare per dare risposte di vario tipo, che riguarda la costituzione dei piccoli gruppi, cioè invece dei carrozzoni, che poi sono carrozzoni mediatici, enormi crogioli di robe che magari non hanno altro referente che non chiedere cose allo Stato. E, il piccolo gruppo politico, noi parliamo di piccoli gruppi di donne e facciamo riferimento all'esperienza degli anni 70, il movimento delle donne negli anni 70 non era costituito da qualcosa di unitario e qualcosa che aveva una bandiera o un gruppo sotto cui riconoscersi. Era fatto da un infinito numero di collettivi, gruppi, situazioni, di 7-8 donne, ognuna portava la sua caratterizzazione, aveva fatto la sua esperienza, portava delle idee. Poi magari ci si ritrovava anche in piazza in determinate occasioni, però la costruzione politica era molto più radicata nel reale. Questi gruppi nascevano da situazioni particolari, c'era il gruppo nel quartiere, c'era il gruppo di amiche, c'era il gruppo nell'università, avevano dei nomi poi molto, tra l'altro, molto belli di fantasia, perché rispondevano alla loro situazione, ai loro desideri, alla loro costruzione. E ripensando alla situazione attuale, in cui c'è questa difficoltà forte di ritrovarsi, di costruire discorso politico, c'è proprio una come se ci fosse un freno a ritrovarsi. Il piccolo gruppo, noi parliamo di piccolo gruppo di donne, ma può essere anche un'esperienza politica esportabile, non necessariamente soltanto di donne, ha una sua caratteristica e una sua forza che possono essere messe in atto con molta più facilità e partendo da sé, dalla propria situazione, dai propri desideri, e diventano portato politico di situazioni particolari che però diventano collettive. No, volevo che parlasse anche Nick, perché è un'elaborazione che ci è molto cara, proprio perché ci siamo poste il problema di come ripartire, da dove ripartire, senza deleghe, senza, in autodeterminazione, dalla costruzione, da costruzioni nostre, anche come momento il piccolo gruppo diventa poi, parlando di situazioni all'interno del movimento femminista, diventa poi anche momento di autodifesa, di tutela reciproca di un gruppo di donne. Quindi per noi è un tipo di organizzazione politica che potrebbe essere molto importante in questo momento. Sì, naturalmente d'accordissimo con la riflessione sui piccoli gruppi. Tra l'altro c'è del materiale nel vostro blog, direi più che valido, insomma, ed è poi la storia del movimento delle donne, cioè i gruppi di autocoscienza. Il movimento delle donne così nasce, non è il grande corteo di piazza, no? E tra l'altro anche come azione contro la violenza maschile sulle donne, il piccolo gruppo è un elemento molto più efficace che non il corteo che chiede leggi allo Stato. Ma al di là di questo, io volevo fare invece tornare alla questione di classe anche, nel senso che ricomposizione di classe e secondo me si sta ricomponendo tanto la classe dominante, cioè in quello che segnalava Stefania è esattamente questo, è il ricomporsi della classe dominante, cioè prendere in mano un malessere per gestirlo. Per essere comprensibile faccio questo esempio. Il blindamento ha avuto una connotazione di classe fortissima, non leggiamolo solo rispetto alle città, io sono una che vive in montagna, quindi non è solo la situazione della città, ma come è stata in vari luoghi. Chi ha pagato più caro quel blindamento sono stati i soggetti considerati, come dire, socialmente più fragili, i disabili, gli psichiatrizzati, gli anziani. Ci sono stati dei tassi di suicidio di cui si continua a non parlare, e continuano ad esserci peraltro dei suicidi, no? È un po' venuta fuori la questione su quella donna in Sicilia sparita col bimbo, ah no, era strippata durante il lockdown, però poi l'hanno fatto come un poverino era fuori di matto. In realtà c'è stato un tasso di suicidio, ne parlavo proprio durante il blindamento, per mail con quelli dell'Artò, che appunto facendo, come dire, avendo un percorso di tipo antipsichiatrico, stavano proprio seguendo anche questi dati, l'emersione di questi dati. Un disagio molto molto forte, mentre al contempo che cosa è successo? È successo per esempio che quando c'è stato il blindamento qua a Milano, stava per esserci la chiusura di tutto qua a Milano, a Milano e in Lombardia, i ricchi che hanno le seconde case in Versilia, io abito in Alta Versilia sulle Apuane, sono nella notte arrivati nelle seconde case. Sono arrivati nelle seconde case pensando di spadroneggiare, perché spadroneggiano d'estate, quindi perché non spadroneggiare anche in marzo, tra l'altro portando il Covid, che fino a quel momento non c'era, c'è stato un picco improvviso, ma vabbè. A parte questo, una cosa incredibile che ho scoperto quest'estate è che lungo tutto il litorale toscano, e in particolare nelle zone più ricche del litorale toscano, le famiglie abbienti lombarde e venete hanno preso in affitto delle case per mandarci i loro rampolli in gruppi di ragazzi, che praticamente stanno un po' facendo arancia meccanica da quelle parti, nel senso, ci sono stati molti casi di violenza contro ragazzini e ragazzine del posto, hanno distrutto ma da figli della, come dire, di una classe abbiente che poi gli garantisce tutta la copertura di cui hanno bisogno, hanno distrutto gelaterie, cose. E quando mi si raccontavano queste cose, tra l'altro, appunto, io non ci avevo fatto caso, perché quando i giornali ne parlano come se fossero a spot, no? dei casi così unici, cioè non ci fosse un filo nero tra questi eventi, in realtà appunto sostanzialmente li hanno mandati a sfogare un'aggressività accumulata durante il periodo del blindamento, perché che l'aggressività sia salita tantissimo credo che sia lampante, lo si vede dappertutto, è pieno di gente veramente con la bava alla bocca. E quindi la soluzione per queste ricche famiglie è stato levarsi dalle palle sti figli che non sopportavano più di vedere e che hanno dovuto vedere per intere settimane, e mandarli a fare il bordello altrove, per in qualche modo, secondo me, contenere, questo è stato il pensiero che ho fatto quando mi hanno raccontato questa cosa, in qualche modo contenere questo elemento di aggressività, hanno deciso la riapertura delle discoteche. Perché è incredibile, se ci pensiamo, che sia un problema essere qui oggi a presentare un libro, dobbiamo osservare il distanziamento, facciamo attenzione a una serie di robe, e le discoteche sono aperte, no? Perché le discoteche sono comunque delle valvole di sfogo, gli hanno tolto gli stadi, gli hanno tolto tutta una serie di robe da qualche parte, quindi le discoteche, poi quelle per fighetti soprattutto, sono quelle che hanno riaperto. Quindi la ricomposizione di classe sta avvenendo da quella parte, non da questa parte, e questa è una questione veramente preoccupante. E aggiungo anche a quello che diceva prima Stefania, che non solo appunto la destra estrema sta cavalcando e si sta organizzando, poi sono decenni che si sta organizzando, perché ormai l'antifascismo militante questo sconosciuto, sono anche pieni di armi fino a qua, Cioè, non è che sono semplicemente palestrati, quello sarebbe il meno, ma sono pieni di armi da fuoco. Cioè, è un continuo, un crescendo di casi, se si vanno a vedere gli ultimi anni, di personaggi della destra estrema che vengono beccati con armi nascoste, molte in Lombardia, molti nel Varesotto. Uno del Varesotto, tra l'altro mi pare fosse un ex finanziere, aveva delle armi anche in Toscana sulle Apuane, e, nella zona di Massa, dove i fascisti sono forti e sono da sempre, insomma, è una zona fascista. Quindi questi sono segnali a cui fare estrema attenzione, perché poi si sa che la classe dominante ha sempre usato i fascisti come manovalanza per il controllo sociale, per la repressione, per proteggere i propri profitti e i propri privilegi. Quindi grazie Stefi che hai tirato fuori anche questo elemento, perché è davvero importante e, come dire, non ci dà un bel quadro, ma è anche bene avere un principio di realtà che ci faccia leggere come dire, la situazione. E appunto qui, rispetto a che punto siamo della notte in Italia, io sono d'accordo sul fatto che mentre magari molti compagni e compagne anche in buona fede hanno fatto un po' la Caritas, o come dice Elisabetta la San Vincenzo, e invece i fasci scendevano in strada a fare quello che saremmo dovuti scendere a fare noi, e questo secondo me è molto preoccupante, ci sarebbe da interrogarsi. Grazie. Va bene, per parte nostra come Carusca cercheremo di far tesoro delle tante cose uscite questa sera per cercare di impostare al meglio i prossimi incontri. Ora, se ci sono altri interventi, altre domande, altre considerazioni, proseguiamo a parte chi deve rientrare per motivi di giustizia. Altrimenti... ci salutiamo in allegria. E se avete meditazioni durante la notte o domani in giornata, domani sera siamo al Kinesis di Tradate, per cui se ci sono delle suggestioni sono benvenute anche domani. Grazie. Grazie veramente anche da parte mia, da parte nostra. Grazie tantissime, perché parlare in questo momento e confrontarci è fondamentale. Va bene, non si può più dire come si faceva una volta, adesso andiamo al bar, però lo spirito resta quello. Salute.